33. Fui a letto per molto tempo, debole e dissanguata, stavo supina, immobile, e come già in un'epoca lontana mi pareva di giacere in fondo a un pozzo. Lontano, lontano, al di sopra di me turbinava la vita, ma di me nulla, in me nulla si muoveva, eccetto il lene e lieve stillicidio del mio sangue che lentamente mi abbandonava. Lene e lieve ad ogni battito del mio polso sentivo scorrere via la mia vita, pianamente, inesorabilmente. I medici si chinavano sopra di me con volto ansioso. Sull'esile mio corpo pesava e bruciava notte e giorno il ghiaccio. Le mie arterie si contraevano sotto la stretta del cloruro di ferro e dell'ergotina, ma gli argini di garza non bastavano ad arrestare quel fine rivolo rosso sul quale, inerte e bianca, io scivolavo alla morte. Ci vorrebbe un'operazione, dicevano i medici. Io sospiravo, no. Ed essi, toccandomi il polso, ascoltandomi il cuore, si sogguardavano esitanti, incerti. Poi, un giorno, senza apparente ragione, l'emorragia si arrestò ed io giacqui sprofondata nel mio letto e nella mia debolezza come in fondo a un pozzo. Naumov veniva ogni giorno a chiedermi notizie, mandava fiori, ma non gli era concesso di vedermi. Kamarovsky aveva il permesso di venire con Tioka per 10 minuti ogni mattina nella mia camera, ma non doveva parlarmi. E Prilukov, chiuso nella mia camera, mi vegliava notte e giorno. Nessuno sapeva della sua esistenza, poiché nessuno entrava nelle mie stanze. Non so come mangiasse né quando, forse ci avrà pensato Elisa. Certo, egli divenne ogni giorno più magro e più sparuto per le veglie, le ansie e il digiuno. Notte e giorno sedeva accanto al mio letto e mi guardava. Quando io, supina, con gli occhi chiusi, mi decidevo a fare lo sforzo di guardarlo, e talvolta ci pensavo mezz'ora, tanto la fatica di sollevare le mie pesanti palpebre mi pareva grave, lo vedevo sempre lì, immobile, con lo sguardo fisso sul mio viso. Con un nuovo sforzo eroico contorcevo un poco i muscoli del mio volto per abbozzare un sorriso, poi, affranta di stanchezza, lasciavo ripiombare le ciglia sulle pupille spente e l'anima mia rifluttuava verso l'incoscienza. Quando cominciai a star meglio, mi accorsi che Prilukov parlava tutto il tempo. Forse aveva parlato anche prima, ma allora certo ero stata troppo debole per comprenderlo, sì, neanche per udirlo. Ora che ogni giorno un po' di forza ritornava in me, udivo e capivo ciò che gli andava dicendo. Era una sequela di anatemi, di maledizioni incoerenti e sconnesse, che egli scagliava contro quei due che mi amavano, che secondo lui mi avevano strappata al suo affetto, che mi avrebbero rovinata, uccisa. Chino sopra di me mormorava: «Devono sparire! L'abbiamo giurato, devono sparire!» Verso sera la sua faccia magra diventava rossa, come se avesse la febbre, ed egli parlava di più e più presto. Sono là fuori, in corridoio, tutte e due. Li sento che camminano su e giù, mormorano insieme, parlano di te. Sono condannati, vero? Tutte e due, irremissibilmente. Non si deve indietreggiare, vero? Dimmi che è vero. Io dicevo sì, con voce spenta, sperando che tacesse, ma egli non taceva. Quell'idea era un'ossessione nella sua mente maniaca. Elisa vagava come un piccolo spettro spaventato per le stanze sempre chiuse a chiave e diceva a Prilukov: «La lasci stare, se no la farà ammalare di nuovo! E lei perché non dorme, perché non mangia, perché non esce?» Prilukov la fissava con lo sguardo vacuo, poi prendeva un sorso di vodka e tornava a chinarsi su me e sussurrava: «Non voglio essere io solo per tutte e due, no? Perché tu dopo avresti orrore e paura di me, no, no! Uno io, uno tu, uno io!» Ed io sussurravo, mite e letargica: «Uno tu, uno io». A poco le forze mi ritornavano e fugavano l'incoscienza che mi annebbiava il cervello. Comprendevo i vaneggiamenti di Prilukov e ne inorridivo. Egli, sempre fisso in quel mostruoso sogno, si dilettava ad immaginarne i particolari. «Io voglio trovarmi da solo a solo con quel giovane, quello che l'altra sera ti abbracciava». E ripensandoci digrignava i denti: «Tu puoi incaricarti del tuo buon Kamarovsky, tuo sposo. Puoi avvelenarlo se vuoi. Dagli un po' di cloralio, un po' d'atropina. Ha un piatto da nozze per lo sposo». Io allora mi mettevo a piangere per lo spavento e per la debolezza. Elisa correva, sdegnata, e lo prendeva per il braccio e lo allontanava da me. Egli andava a buttarsi sul divano nel salotto, ma poco dopo ricompariva e ricominciava: «Elisa, Elisa», sussurrai una sera, «ho paura, ho Ho tanto paura di lui. Devo dirlo al signor Conte? Chiese Lisa costernata. No, no, posso dirlo al signor Naumoff? Io esitai, poi ricordando quegli occhi d'oro pieni di fede e di idolatria. No, no! E celai il viso nei guanciali. E venne finalmente il giorno in cui potei alzarmi per un'ora. Allora non fu più possibile impedire a Kamarowski di venire accanto a me. Prilukov non voleva andarsene, non voleva muoversi dalla mia camera. Finalmente mi forzò a rinnovare l'abominevole giuramento e quando ebbe evocato ancora la serafica figurina di Tioca, auspice a due spaventevoli delitti, se ne andò. Elisa mi vestì ed io mi adagiai in poltrona accanto alla finestra. Kamarowski entrò tutto commosso. «Come sei pallida!» disse. E i buoni occhi gli si riempirono di lacrime. Sei lattea come una perla. E si chinò a baciarmi con infinita tenerezza le chiome. Vedendolo così sano e sorridente vicino a me, i macabri discorsi di Prilukov mi parvero vaneggiamenti di delirio. Egli mi tenne stretta la mano, quasi avesse paura che gli sfuggissi. Oh, povera manina bianco-azzurra, sei divenuto trasparente, Dushka mia. Io posso vedere attraverso te la tua anima tremare e ondeggiare come una fiammella. Ed ebbe un piccolo riso commosso, quasi vergognandosi della sua metafora poetica. Io sorrisi, tutto il mio morboso odio contro di lui, come tutta la mia passione di desiderio per Naumov, era spento. Non avevo in me che infinita debolezza e languore. Avrei voluto dormire, spegnermi, dileguare. Pochi istanti dopo venne annunciato Naumov che mi portava delle rose. Io non fui né lieta né triste di vederlo. Puntualmente, dopo un'ora, Elisa Perieli mandò via entrambi e mi ricondusse a letto. M'addormentai quasi subito. E quando riaprii gli occhi, il crepuscolo empiva d'ombre la mia stanza e Prilukov, seduto vicino al mio letto, parlava piano tra sé e sé di coltelli e di veleno. 34. Da quell'ora crebbe la mia paura di lui, ebbi un unico pensiero, fuggire. Da quell'ora crebbe la mia paura di lui, ebbi un unico pensiero, fuggire. Fuggire lontano, dove egli non potesse ritrovarmi, fuggire con Tioca e Elisa, dove né questo terribile maniaco, né Kamarowski, né Naumov mi potessero più raggiungere. Pensai alla casa di mio padre. Ma come poteva quel povero vecchio proteggermi contro le insistenze tenere del conte, le audacie e appassionate di Naumov e le astuzie diaboliche del terribile Prilukov? Nei rari momenti in cui mi trovavo sola con Elisa se ne parlava, sussurrando, tremando, guardandoci intorno per paura che lo scorpione ci spiasse, combinammo la nostra fuga. Si fecero mille piani diversi, tutti stravaganti, tutti impraticabili. Nelle nostre sontuose stanze d'albergo ci sentivamo prigioniere come in una trappola. Non aprivamo una porta senza trovarci di fronte a Kamarowski, oppure a un cameriere zelante e ossequioso, o a Naumov aspettante con un mazzo di fiori in mano. Richiudevamo la porta ed eccoci sole con Prilukov, truce, maniaco, che ci guardava con occhio di tigre. Mille volte pensai, nella mia debolezza e disperazione, di spalancare la porta e chiamare aiuto, chiamare Kamarowski e Naumov, gridare: guardate, c'è quest'uomo, chiuso qua dentro, da tanti giorni mi tortura e mi minaccia. Quest'uomo è un ladro ed è stato mio amante, liberatemi da lui. Ma poi mi figuravo le violenze, le lotte, la camera echeggiante di colpi di rivoltella, e al solo pensarci, debole e dissanguata qual ero, mi coglievano dei lunghi deliqui da cui a stento la povera Elisa riusciva a farmi rinvenire. Un mattino Elisa ebbe un'idea: confidiamoci col dottore. Io fui d'accordo. Quando il medico entrò, mi trovò col polso rapido e irregolare e il respiro breve. L'emozione mi stringeva la gola. Dottore, cominciai. Ah, male, male. Che cosa vuol dire tutta questa agitazione? Dovrò lagnarmi di lei col mio amico Paolo. Il suo amico Paolo, già. Egli era amico intimo di Kamarowski. Come pensare che gli avrebbe taciuto il mio terrore, la mia meditata fuga? Era un'idea folle, un'idea stolta di Elisa. E io tacqui. Egli prescrisse del bromuro, mi raccomandò tranquillità assoluta di corpo e di mente. Appena fu partito, vidi che le lunghe tende appese dinanzi ad un'alcova, dove Elisa riponeva le mie vesti, ondeggiavano. Poi si divisero e apparve il viso di Prilukov. Egli non era dunque uscito all'arrivo del dottore. Si era nascosto, ma allora se io avessi parlato? La mia paura di lui divenne frenesia. Lo pensavo dotato di poteri soprannaturali. Mi pareva che la stanza fosse piena di tanti Prilukov che da tutti gli angoli si sporgessero a guardarmi. Mi avviticchiai a Elisa e le sussurrai: «Voglio partire stasera, stanotte, hai capito?» «Sì, signora», disse Elisa, e nella sua risposta ferma, umile, vi era qualche cosa di grandioso. Più tardi, mentre ella mi vestiva, china a mettermi le calze, mormorò, e Prilukov leggeva nel salotto accanto: «Non abbiamo denari per viaggiare. Il conte te ne darà», sussurrai. «Non senza chiedermene lo scopo, ce ne vorranno molti». «Inventa qualche cosa», sospirai. Mi sentivo venir male. «Cosa bisbigliate voi altre due?» chiese la voce di Prilukov, tagliente e sospettosa. Tacemmo. Aiutata da Kamarowski e da Elisa, scesi sul terrazzo e per tutto il pomeriggio stetti sdraiata nel mite sole primaverile, con gli occhi chiusi e le membra rilassate. Pensavo alla fuga della notte imminente. Kamarowski, seduto accanto a me, taceva, credendo che io dormissi. Di lì a poco udii i passetti celeri di Tioka che veniva correndo verso di noi. Kamarowski certo gli fece cenno di star zitto, poiché il piccolo non parlò, ma si arrampicò piano piano sulle ginocchia del suo grande amico e gli appoggiò sul petto con mossa confidente il capo ricciutello. Tra le ciglia socchiuse io li guardavo e pensai alla trama macabra che si ordiva intorno a quell'uomo buono e generoso che andava ignaro verso un iniquo tradimento, e pensai al giuramento truculento che cingeva di sangue quella bionda testa infantile, e con un gemito mi raddrizzai e tesi ad entrambi le braccia. Erano le 11 di sera. Elisa spense i lumi e preparò sul mio tavolino l'acqua e il bromuro. Prilukov girondolava tra camera e salotto fumando una sigaretta. «Elisa!» sussurrai. «Elisa, quando?» «Zitta, signora, più tardi, verso mattina!» E con un gesto del capo indicò Prilukov. «Quando lui dorme!» «Ma lui non dorme mai!» «Stasera dormirà!» V'era nella voce di Elisa un gelo, una durezza che non avevo mai sentito. «Perché dormirà? Come fai a saperlo?» Ma prima che la potesse rispondermi, Prilukov ricompariva sulla soglia. Aveva un bicchierino di vodka in mano. «Maledetta gola!» disse, gettando via la sigaretta e portandosi una mano al collo. «Tutto quanto inghiotto mi brucia e mi graffia!» E tossì per schiarirsi la gola. «Puoi filare, Elisa, sto qui io con la tua padrona!» Elisa non rispose. Con viso chiuso e duro versava l'acqua nel mio bicchiere e scioglieva dentro le piccole pastiglie di bromuro. Poi, con le spalle rivolte a Prilukov, fissò gli occhi su di me e mosse le labbra. «Non beva», formulò chiaramente. Io la guardai stupita ed ella rifece con le labbra la stessa mossa. «Non beva nulla». Poi, vedendo che nonostante il mio stupore avevo compreso, mi disse rispettosamente: «Buonanotte, signora», e si allontanò. Uscì dalla porta della stanza da bagno, di cui teneva sempre lei la chiave. Prilukov si gettò sulla poltrona e sbadigliò. «Maledetta gola», ripeté. E si versò un bicchier d'acqua dalla mia caraffa, ingoiandola tutta ad un sorso. Poi tossì violentemente. «Per Iddio!» esclamò. «Anche questa pare di bere del cloralio!» E di nuovo tossì e sbadigliò, poi appoggiò il capo sul mio letto e dopo pochi istanti si raddrizzò di soprassalto. «Per Dio!» ripeté e si alzò. Lo vidi andare verso il tavolino su cui Elisa lasciava ogni sera del caffè, già pronto su una macchinetta da spirito. L'accese ed io seguii con lo sguardo l'ondeggiare tenue e azzurrino della fiamma. Mentre il caffè si scaldava, Prilukov continuò a schiarirsi la gola, mormorando: «Per Dio!» Versò il caffè fumante in una tazza e lo sorseggiò. «Ma per Dio, per Dio, per Dio!» gridò e si volse repentinamente a guardarmi. Io avrei voluto chiudere gli occhi, ma non osavo. Egli si avvicinò al mio letto e si chinò guardandomi in faccia. Poi mi toccò la spalla. «Di un po'!» Io battei le palpebre con far assonnato. «Cosa c'è, caro? Assaggia un po' questo caffè!» e mi spingeva la tazza contro la bocca. Mi misi a sedere e sorridendo gli presi la tazza di tra le mani. «Brucia!» dissi, toccandolo appena con le labbra e facendo smorfie. «Bevi!» disse lui, che aveva gli occhi socchiusi ma la voce terribile. Io ne assaggiai un sorso, mi graffiò la gola come un rastrello, pensai a Elisa e compresi, come in un baleno mi passò per la mente l'idea di dire che non vi trovavo nulla di insolito, poi mutai pensiero. Misericordia! Esclamai. Cosa c'è in questo caffè? Ma è veleno! Prilukov si chinò ancora più vicino a me. Se dicevi che era buono, ti strozzavo. Io stringevo i denti per il sapore di cloralio e per la paura di Prilukov. Ne hai bevuto molto, ansai. Chiama, chiama aiuto! Ma Prilukov si era abbandonato sulla poltrona, subito con la testa rovesciata indietro e la bocca aperta, s'addormentò. 35. Come sgusciammo dall'albergo quella notte, noi tre, miseri, meschini e spaventati. Tioca pieno di sonno guaiva come un cagnolino. Dove andiamo? Ho paura. Voglio il Papa Paolo. Chiama il Papa Paolo. Vedendoci scendere per il grande scalone buio, un portiere della notte si alzò da un banco dove era sdraiato e ci mosse incontro, stupefatto. Fui io la prima a trovar parole. Mi sento male, dissi. Vado dal dottore, chiamate una carrozza. Ma perdoni, signora, balbettò l'uomo. Non sarebbe meglio che io telefonassi a far venire qui il dottore? E i suoi occhi diffidenti vagarono da me al piagnucolante Tioca. E da Tioca a Elisa, carica di scialli e di medicine, tutto il nostro bagaglio. Elisa disse con fare reciso: aprite la porta e chiamate una carrozza, fate presto. L'uomo scosse la testa. Allora vidi Elisa ammucchiare sul braccio sinistro tutti gli scialli e farsi rapidamente, deliberatamente con la destra il segno della croce. Indi frugò sotto il suo mantello e dopo qualche istante strasse un foglio di carta e lo tese all'uomo. Era un biglietto da 1.000 rubli. L'uomo prese il biglietto e lo guardò. Parve sbalordito. Lo rigirò tra le mani, poi guardò Elisa. Aprite la porta e chiamate una carrozza, ripeté ella con voce bianca. Allora l'uomo obbedì. Era già l'alba. Le campane suonavano a festa. Elisa si rifece il segno della croce. Aveva intaccato l'elefante bianco. Oh, Elisa Perrier, non ultimo tra i miei grandi rimorsi. Che vegliano come angeli dalle spade fiammeggianti sul sepolcro del mio passato, è quello di averti spinta nel disonore con me. La tua onesta mano, la tua candida anima, per me sola si macchiarono di colpe. Mentre aspettavamo, mi parve di udire di sopra aprire e chiudere una porta. Trasalì, Prilukov! Ansai guardando Elisa, ella scosse il capo. Che cosa gli hai fatto? Ho messo del cloralio in tutto, in tutto! Elisa rabbrividì. E se morisse? Elisa non rispose. E se ci mettessero in carcere? Le campane suonavano a distesa nell'alba pasquale. Elisa chiuse gli occhi, le sue labbra si mossero. Bon Dieu de Pâques, béni nous. Buon Dio della Pasqua, benedici. Benedici noi. Tioca smise di piangere per guardarla, poi con un adorabile sorriso la imitò. Chiuse i grandi occhi ancora pieni di lacrime e disse: Bon Dieu de Pâques, béni nous. La catastrofe precipita. Prima degli altri, Prilukov ci ritrovò. Eravamo da 4 giorni a Vienna, nascoste nel piccolo Hotel Victoria, quando un mattino lo vedemmo comparire allegro e beffardo, tutto sorrisi e buon umore. Trovandoci così sole, la sua demenza malvagia di Orel pareva dileguata. Era di nuovo il Prilukov di Mosca, il cavalier servente, il Lohengrin. Non parlò del passato, non fece alcuna allusione al cloralio, non rammentò i suoi propositi omicidi, ma gaio e spensierato ci condusse attorno in carrozza, in automobile, al Prater, al Brühl, al Semmering. Ci fece andare a teatri, concerti, al Tingeltangel e al cabaret. E per pagare tutto ciò si serviva dell'elefante bianco. Quando si aveva bisogno di denari si prendevano lì. Nessuno teneva conto di nulla. Per qualunque cosa occorresse si andava ad attingere nell'involucro squarciato dell'elefante bianco e non se ne parlava più. Io mi lasciavo andare alla deriva. Non pensavo né all'avvenire né al passato. Debole e inerte mi abbandonavo al destino, fuscello sull'acqua, senza meta, senza desiderio, senza volontà. Un giorno seppi dai giornali che Kamarovsky metteva in moto la polizia di tutte le città di Russia per trovarmi. Allora, dietro consiglio di Prilukov, mandai Elisa a Neuchâtel perché di là gli telegrafasse a nome mio. Ciò doveva tranquillizzarlo e sviare le sue ricerche. Appena il nome di Kamarovsky fu pronunciato tra noi, Prilukov si rannuvolò. Ridivenne torvo e pensieroso e per tutta la giornata non mi parlò. Quel giorno, appunto, avevamo preso un palco per il Theater an der Wien e la sera si doveva condurre Tioca a udire di Lustige Witwe. Alle 8 il piccino, già pronto, saltava su e giù e guardava dalla finestra. «Facciamo presto!» gridava. «La carrozza è stanca d'aspettare! Facciamo presto!» D'un tratto gittò un grido di gioia. «Ma guarda! C'è Papà Paolo! È lì che passa! Papà Paolo!» strillò con quanta forza aveva. Prilukov lo afferrò per il giubbetto e lo trascinò all'indietro, poi a sua volta si affacciò. «Sì!» «Sì!» disse, chiudendo la finestra e guardandomi con quel terribile sorriso storto che io avevo imparato a temere. «È lui!» Vi fu una pausa. «E adesso basta! La faremo finita!» Nei suoi occhi lampeggiò l'assassinio. Io chiusi tra le braccia Tioca, tutto malinconico per la inusitata villania di Prilukov, e gli baciai i morbidi capelli, poi sospirai la preghiera di Elisa. «Bon Dieu de Pâques, béni nous!» Ma ahimè! Non era più Pasqua. Andammo lo stesso al Theater an der Wien e mentre l'orchestra altalenava nell'ondeggiante ritmo dei valzer e Tioca rideva estatico di gioia, Prilukov dietro a me nell'ombra formulava il delitto. Lo hai giurato su tuo figlio, se indietreggi pagherà lui. Tioca si volgeva a noi con squillante risata. Ma guarda, mamma, com'è bello, ma guarda il gendarme grasso che balla. Quando Kamarovsky avrà scoperto che sei qui, continuava Prilukov. Io l'interruppi. Ma partiamo! Partiamo subito! Inutile partire. Ci troverà lo stesso, tu marchi troppo! Soggiunse con una cinica risata, guardandomi da capo a piedi. Dunque è meglio che egli non ti trovi con me. Io rimango al Victoria. Tu domani vai a installarti all'Hotel Bristol e quando sarai lì, ecco ciò che hai da fare. Sull'allegra onda del valzer galleggiavano gli iniqui suggerimenti come carogne putrefatte su un gaio ruscello scintillante. Io rabbrividivo, inorridita, mormoravo: «No, no, no!» Oh, quella musica di Lehar che tutti conoscono, che si ode da ogni organetto, ad ogni svolto di strada, quali mostruosi misteri mormorava a me. «Ich gehe zu Maxim, da bin ich sehr intim. Ich nenne alle Damen bei ihre Kosenamen.» Le gioconde strofe ululavano nelle mie orecchie come malefiche furie e mi flagellavano con turpi sollecitazioni, con empi consigli. E mentre il piccolo Tioca ride e batte le mani, io, sua madre, sprofondo e mi inabisso nella disperazione e il delitto, come un mare di fango, chiude le corrotte onde sopra di me. 36. Tutto avvenne come Prilukov aveva preveduto. Kamarovsky mi trovò la sera seguente sola con Tioca all'Hotel Bristol, mi colmò di rimproveri e di carezze. Io mi chiusi in un misterioso mutismo che egli interpretò come broncio di bimba viziata. Né se ne adombrò, era troppo felice di avermi ritrovata per contendere coi fati o con me, soltanto mi disse: «Non ti lascerò più!» E quella frase suonava ad un tempo promessa e minaccia. Prilukov non si fece più vivo. Potevo credere che mi avesse dimenticata. Egli mi aveva fissato un termine, 10 giorni. All'ottavo giorno mi mandò un biglietto che io mi recassi quella sera alle 9 all'Hotel Victoria senza fallo. Mi avrebbe consegnato quanto occorreva. Non mancassi o sarebbe venuto lui. Pretestando un'emicrania, mi ritirai quella sera alle 8 in camera mia. Mezz'ora dopo una carrozza chiusa mi portava al Victoria. Ricevetti dalle mani di Prilukov una siringa, due minuscole bottigliette, una scatola di perle di nitrato d'amile e di cloroformio. Ricevetti dalle sue labbra contratte e grigiastre istruzioni sul modo di servirmene. Anche egli batteva i denti, aveva le mani ghiacce e lo sguardo smarrito. Allora io gli caddi ai piedi, lo implorai con quanta forza mi dava la disperazione di desistere dall'abominevole intento. Gli rammentai il suo passato di onest'uomo, la sua giovinezza candida, l'affetto buono e pietoso che prima lo aveva legato a me. Con le lacrime che mi correvano per il viso, abbracciandogli i ginocchi, giurai che gli sarei eternamente grata, eternamente devota, purché non macchiasse l'anima mia di un crimine, purché anche lui non si perdesse eternamente con un così nero, un così vile delitto. Battevo la fronte sui suoi piedi, invocando da lui la morte per me, ma pietà, pietà per quell'uomo generoso, cavalleresco, che non voleva che proteggermi e salvarmi. Quali parole mi ispirò il cielo per commuoverlo, non lo so. D'un tratto egli fu scosso da capo a piedi da un immenso singhiozzo, si chinò su di me e mi rialzò, poi cadde su una poltrona e pianse, pianse con la faccia alzata, spaventoso d'angoscia e di desolazione. Anch'io piangevo inginocchiata accanto a lui, baciandogli le mani, ringraziandolo, benedicendolo. Donato, Donato, anima cara, non piangere, è stato tutto un sogno atroce. Eravamo malati, eravamo dei poveri malati, Dio non ne terrà conto. Cancellerà tutto, perdonerà tutto. Ringraziamolo, Donato, di non averci lasciato far nulla, di non averci lasciato far male a nessuno. Ricominceremo la vita, tutta nuova, ridiventeremo onesti. No! No, singhiozzava Prilukov, sono un delinquente, ho rubato. Non importa, non importa, restituirai tutto, ti aiuterò io a restituire tutto, e soffriremo, espieremo, ma ritorneremo nella vita riabilitati e redenti. E in cuor mio pensavo che tutto avrei confessato a Kamarovsky, tutto, e quest'idea mi riempiva di gioia. Gli avrei svelato i più neri abissi della mia anima, gli avrei confessato tutte le nequizie meditate contro di lui, tutti i tradimenti, tutte le viltà. Egli mi avrebbe discacciata e odiata, mi avrebbe calpestata come una cosa velenosa, ma io, mite e mansueta, avrei chinato il capo sotto il suo sdegno e il suo disprezzo. Sarei andata a vivere lontano, umilmente, nell'ombra. Forse avrei unito il mio destino al triste destino di Prilukov, paria e degradato. Sarei rimasta per sempre con lui. Esaltati e ispirati ci inginocchiamo in quella banale stanza d'albergo e ringraziamo il Dio di averci aperto gli occhi, di averci toccato il cuore, di averci salvati. Poi, tenendoci per mano e dicendo ad alta voce: Padre nostro che siete nei cieli, spezzammo in mille frantumi le bottigliette e la siringa. Prilukov si lacerava le carni, spezzando l'ago d'acciaio che gli si infiggeva come una cosa viva e feroce nelle palme. Santificato sia il vostro nome. Calpestammo le perle d'amile e di cloroformio e se ne sprigionavano dei letali vapori che ci stordivano. Briachi di essi e della nostra stessa esaltazione, ricademmo a ginocchi con le mani alzate, singhiozzando e pregando: Perdonateci i nostri peccati, perdonateci i nostri peccati, non ci inducete in tentazione. 37. Quando eravamo piccoli, ricordo che andammo un anno in riva al mare, non so più dove, non so quale fosse il mare, e una nostra governante inglese ci condusse un mattino sulla spiaggia per vedere il tidal wave. Che cos'è il tidal wave, Miss Williams? Domandammo noi. Sono due o tre ondate immense che non vengono che una volta all'anno, disse la sibillina Miss Williams. State zitte e guardate. E noi stemmo zitte e guardammo, e difatti sull'orizzonte ci pareva già di veder venire verso di noi un'onda grossa, immensa, molto più grande delle altre. Eccolo, eccolo, sarà questo il tidal wave? No, diceva Miss Williams, non è questo. Difatti eccone venire un'altra, più grande ancora, ergersi, torreggiare e cadere. Sarà questa, sarà questa. Ma dietro di questa, ecco sull'orizzonte ergersi un'onda gigantesca, un muro d'acqua che si avvicinava, formidabile, spaventoso. Era quello il tidal wave. Nella mia vita, quando gli avvenimenti tragici, inarrestabili, si sono ammassati sopra di me come un'immane onda, e ne ho veduto la cresta spezzarsi per naufragarmi e sommergermi, quando catastrofe su catastrofe si è innalzata, torreggiante e terribile sopra il mio capo, mi sono detta: ecco. Io sono sulla cresta del tidal wave. Nulla di più formidabile, nulla di più tremendo può seguire. Questa è l'ultima vetta. Si infranga, si spezzi e mi trascini con sé. Nulla più può seguire. Ma ancora, e ancora, dietro una gigantesca onda di tragedia, ne seguiva un'altra più immensa, e poi un'altra, e un'altra, onde di sogno, favolose, spaventevoli. Così, in quella sera, lasciando Prilukov, credetti di essere piombata al fine nella valle rovinosa, profonda, del tidal wave dei miei destini. Nulla più poteva travolgermi, davanti a me più nulla se non la distesa piana e infinita della tristezza e del pentimento. Ma non fu così. Un'altra onda di sciagura immane, titanica, favolosa, si inalberava già, tremenda come il muro d'acqua della mia infanzia, mi innalzava sulla sua cresta, poi, con vasto scroscio, mi trascinava verso l'irrevocabile rovina, mi piombava nell'abisso del delitto. Era questo il tidal wave, l'ultima onda. Tioca si ammalò. Subito, quella notte stessa, Elisa venne nella mia camera a chiamarmi. Signora, venga, presto, il signorino sta male, ha la febbre e parla da solo. Io corsi nella stanza del piccino. Era seduto sul letto, gli occhi fiammeggiavano spalancati nel visetto infuocato. Dove? Quando? Lo avevo già veduto così. E parlava, parlava delirando, parlava di Tania che da 2 anni non vedeva e di cui non aveva mai più parlato, parlava del nonno e di Bear e voleva un quadro e voleva una poesia. Si avviticchiò al mio collo appena gli fui vicino. Mamma, dimmi, dimmi la poesia, la poesia. Quale poesia, amor mio, idolo mio? La poesia, il quadro, la poesia, il quadro, dillo, dillo. E piangeva e tremava con la gota affocata vicino alla mia. E io cominciai. Questa è la bella che va al mulino, questo è il mugnaio. No, no, no, gridò il piccino, non quella, non quella. E io tentai. Occhietti di lino, nasetto di pesca, boccuccia di miele tra l'era tra la. No, no, urlò Tioca disperato, singhiozzante. Tania, la luna, il quadro, fa presto, fa presto! Come una folgore nella mia memoria si lacerarono le nubi dell'oblio. Vidi la bianca stanza dei bambini nella villa di campagna. Tra i due lettini la lampadetta sempre accesa illumina un'ingenua Madonna che ritta su uno sfondo stellato reca sulle giovanili braccia un Gesù bambino con la corona di conte in testa. Piano, piangendo, cullando il capo di mio figlio sul mio petto, cominciai. La Madonna, coi piedi sulla luna. Tioca peggiorò tutto il giorno, con le guance rosse smagrite, gridava che voleva grani e che voleva Tania, ma Grani era stato mandato via in fretta per paura di contagio. La sorella del conte Kamarowski era venuta a portarselo via e Tania, ahimè, la piccola Tania, lontana nell'avito castello dei Tarnowski, docile e buona a fianco di suo padre, certo non ricordava più il suo biondo fratellino, certo non ricordava più la tragica madre sua. I dottori scuotevano gravemente le teste davanti a quel letticciuolo scomposto in cui il piccino si dibatteva in un'inquietudine senza tregua, gridando: «C'è un treno che mi corre sulla testa! Portatelo via! Mi fa male! Mi fa male!» E vedendogli la gola di un rossore quasi violetto, mormoravano: «Difterite! Scarlattina!»